Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo anche della vicenda popolare di Vicenza, che so che interessa molti ascoltatori, ma è anche emblematica su cosa hanno fatto alcune banche, in questo caso non quotate. Oddio, alcune, sono soprattutto due: Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Perché lo dico? Perché oggi è arrivato il cosiddetto prezzo a cui, diciamo, il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza ha fissato il prezzo di recesso, quindi i soci che vogliono vendere le azioni che hanno possono venderle, e quindi quelli che non vorranno la trasformazione della Popolare di Vicenza in SPA potranno uscire con 6,3 euro per azione. Ora, il titolo non è quotato, la vicenda l'abbiamo raccontata, ma vi torneremo sopra, nel senso che la Popolare di Vicenza, come Veneto Banca, come altre banche, va detto, non è che fossero le uniche, e c'è un'inchiesta anche in corso, chiedevano spesso per erogare un mutuo, altre volte si è scoperto anche davano prestiti affinché venissero comprate azioni, ma insomma, quando veniva erogato un credito si chiedeva al cliente di comprare azioni della Popolare di Vicenza. Piccolo problema: le azioni della Popolare di Vicenza, così come quelle di Veneto Banca, non erano quotate, quindi tu le compri, ma poi se vuoi venderle, tu fai un'offerta, ma il compratore lo deve trovare la banca. Mentre quando un'azione è quotata, quando un titolo è quotato in borsa, insomma, certo che ci puoi perdere, ma di solito un compratore lo trovi. Con la conseguenza che fino all'estate del 2014 le azioni venivano date, o veniva chiesto di comprarle, per essere più precisi in molti casi, a 62,5 euro. Poi l'assemblea di aprile porta il prezzo a 48 euro, ripeto, non essendo quotata in borsa il prezzo veniva deciso, diciamo, dall'assemblea e su suggerimento del consiglio di amministrazione, a 48 euro, quindi già con una grossa perdita. Adesso da 48 euro il prezzo scende a 6,3 euro per azione. Devo dire che rispetto alle ipotesi è anche più basso. Nei mesi scorsi si era ipotizzato 10 euro per azione, tra i 7 e i 10 euro per azione, 6,3 euro vuol dire sostanzialmente che chi ha azioni della Popolare di Vicenza comprate fino all'estate del 2014, se vuole in questo momento uscire dalla banca, avrà un decimo di quanto investito. Questo è obiettivamente, ma con la cosa più grave, ripeto per la quarta volta, è che un conto è avere un titolo quotato che tu vedi che continua a calare ma non vuoi venderlo, un conto è avere un titolo che tu non riesci a vendere perché ogni volta che vai in banca ti dicono che non c'è nessuno che vuole comprarlo. Questo è stato il problema, e quindi i risparmiatori correntisti, ma anche semplicemente clienti della Pop Vicenza, si sono trovati con un valore nominale di migliaia di euro che non riuscivano però a ottenere perché nessuno gliele comprava, finché poi sono scesi da 62,5 euro a 48 e adesso a 6,3 euro. La perdita vuol dire sostanzialmente dell'87% per chi aveva i titoli inizialmente, che sale al 90% per chi ha sottoscritto gli aumenti di capitale, appunto quelli a 62,5 euro. Si tratta di una perdita potenziale di quasi 4 miliardi di euro, pari appunto all'87% del valore dei titoli. Di questo parleremo. Parleremo anche chiaramente della borsa, che oggi è positiva di nuovo. L'indice sta recuperando, è a 17.368 punti, più 2,42% Milano, più 3% Parigi, più 2,60% Francoforte, e ancora Londra più 2,60%. Bene, devo dire, non solo le banche oggi, anzi Ferrari più 11,30, Anima Holding più 9, Saipem più 9, Azimut più 8,60, Tenaris più 6,11%, Telecom più 5,70, Fiat più 4,70 come Ferragamo, Poste Italiane più 4,40 come Hughes Net-a-Porter. Il 4,20 lo guadagnano sia Tod's che Moncler che Exor e CNH Industrial. Il 3,70 è il rialzo di Prismian e di Unipol, il 3,40 quello di Buzzi Unicem e del Monte dei Paschi di Siena, il 3,30 è STMicroelectronics e Unipol SAI. Di negativo non c'è niente, guadagnano meno della media Atlantia che è invariata, Snam ed Enel più 0,20%. Devo dire l'euro è stabile a quota 1,11 nei confronti del dollaro. E il prezzo del petrolio è la scusa, se vogliamo, il pretesto per tornare a comprare, un prezzo del petrolio che oggi è risalito, ma insomma, dico che è una scusa perché siamo sempre sotto i $30 al barile, 29,8, comunque più, quasi più 3%. 349-238-6666 per i vostri SMS, la pagina di Focus Economia sul, per gli SMS e per WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, rapidamente le altre notizie in breve. Allora, andiamo come sempre con le notizie internazionali. L'Iran ha detto, starà per dire, insomma, è in procinto di dire no al congelamento della produzione, al tentativo di riportare un po' sopra i $30 il prezzo del petrolio congelando la produzione dei paesi produttori, a partire dai paesi OPEC, ma non solo. L'accordo è Russia-Arabia Saudita, l'Iran è intenzionato a dire di no. Il Cremlino ha detto di non essere al corrente su negoziati tra Iran e Iraq, però insomma, da questo punto di vista l'accordo, come abbiamo spiegato ieri, rischia di essere un po' monco se anche l'Iran non parteciperà. Ancora per quello che riguarda l'economia europea, la disoccupazione continua a calare in Gran Bretagna, a fine del 2015 è tornata ai minimi da 10 anni, quindi da prima dello scoppio della crisi. Anche in Gran Bretagna però, come negli Stati Uniti, questo si è ottenuto, va detto, con una pressione sui redditi dei lavoratori, nel senso che l'incremento dei redditi dei lavoratori rallenta. Il livello medio del reddito in Gran Bretagna continua a crescere al rallentatore, per la precisione. È però tornata la deflazione in Grecia, a mio avviso, se avanti così, qua ci prepariamo a un maggio-giugno di nuovo tutto greco, l'abbiamo già detto, sia sul fronte degli sbarchi, ahimè, che sul fronte della crisi greca. Spero di sbagliarmi. Comunque la Grecia è tornata in deflazione, meno 0,1%, non capitava da... pensate che praticamente la Grecia ha avuto solo un mese in cui i prezzi sono cresciuti, in 35 mesi sono calati per 34 mesi. Veniamo invece alla parte italiana, e dove ci agganceremo anche al tema dei titoli bancari. Parleremo oggi, lo dico, anche di Confcommercio, che in un rapporto molto importante segnala come, importante perché non è solo legato al mese su mese o all'anno su anno, va a analizzare la pressione fiscale in Italia dal 95 al 2015 e scopriamo che è passata dal 40,3%, scopriamo per modo di dire, al 47%. Il punto a mio avviso saliente però è un altro, perché per anni abbiamo avuto governi che dicevano vogliamo ridurre la pressione fiscale, in parte alcuni l'hanno fatto, ma insomma il problema è che un conto è ridurre la pressione fiscale dello Stato centrale, altra cosa è se aumenta quello delle tasse locali. Le tasse locali in questi 10 anni hanno fatto più 248%, non solo per colpa dei comuni e delle regioni. Certo che poi nella nostra rubrica, nel nostro appuntamento del venerdì sugli sprechi, molte volte comuni, province, regioni hanno utilizzato male questi soldi, ma anche perché, va detto, nel frattempo lo Stato ha ridotto i trasferimenti agli enti locali. Allora è chiaro che se tu da un lato cerchi di ridurre le tasse a livello nazionale, ma poi quelle locali fanno più 248% in 20 anni, beh, l'effetto non solo si annulla, ma a questo punto è complessivamente anche di un aumento della pressione fiscale. Va avanti intanto l'inchiesta della Procura di Monza sulla sanità lombarda, anche come polemiche. Interessante notare alcune delle intercettazioni del braccio destro di Maroni, ex braccio destro di Maroni, l'assessore alla sanità Rizzi, sospeso dalla Lega, va detto, perché emerge che insomma il consigliere regionale lombardo ed ex senatore leghista, a questo punto Fabio Rizzi, percepiva circa 8.000 euro al mese, di cui ne versava 1.500 alla Lega Nord e 5.000 di mutuo. Ora, proprio per pagare il mutuo, come risulta da una telefonata tra il politico e la sua compagna, Rizzi era in attesa di operazioni giuste, le chiama così, con cui sarebbe riuscito a distinguere i mutui. In particolare spiegava che dall'ospedale pediatrico, cioè dall'ospedale in Brasile, potrebbero venire fuori un paio di milioni a testa. Complimenti, anche perché già lucrare sugli ospedali fa schifo, lucrare sugli ospedali pediatrici fa due volte schifo, poi in Brasile. E poi appunto ci sono due o tre operazioni grosse in ballo, e la moglie: sì, ma cosa intendi per grosse? Come entrata qualche milione di euro da dividere in quanti? Rizzi, in tre. E parla anche di una compravendita di zucchero per la Russia. Ma voglio dire, è comprarsi meno case, Rizzi, oltre che cercare di essere onesti quando si amministrano i soldi. 5.000 euro di mutuo li puoi fare, benissimo, se te li puoi permettere, ma se ne prendi 8.000, che sono già tantissimi al mese, se ne prendi 8.000, che sono già tantissimi al mese, forse 5.000 euro di mutuo sono un po' tanti, a meno che tu non pensi di avere altre entrate. Se sono legali, nessun problema, ma in questo caso mi sembrava che le entrate fossero tutt'altro che legali. E a proposito di legalità, oggi segnalo il rapporto Agromafie, il quarto rapporto sui crimini agroalimentari in Italia, realizzato da Coldiretti, da Eurispes e dall'Osservatorio sulla criminalità. Il business delle agromafie supera i 16 miliardi di euro. Le tipologie di illeciti riscontrate con più frequenza da parte delle organizzazioni criminali nel settore agroalimentare sono: vabbè, associazione per delinquere di stampo mafioso e camorristico, concorso in associazione mafiosa, truffa, estorsione, porti illegali di armi da fuoco, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, contraffazione di marchi. Praticamente c'è quasi tutto. E infatti i clan ricorrono a tutte le tipologie di reato tradizionali: usura, racket, estorsione, abusivismo edilizio, ma anche a furti di attrezzature e mezzi agricoli, abigeato, il mitico abigeato, il furto di bestie, di animali, e macellazioni clandestine. Poi ci sono aspetti patologici. Pensate che la direzione investigativa antimafia ha scoperto che i prezzi di frutta e verdura durante i vari passaggi della filiera, per appunto il business delle agromafie, vengono fatti lievitare fino a 4 volte durante i passaggi della filiera. Questo è un effetto un po' dei monopoli e dei grossisti, ma anche delle distorsioni introdotte dall'infiltrazione della malavita nell'attività sia di trasporto che di intermediazione. Coldiretti fa notare che ci sono 26.000 terreni nelle mani di soggetti condannati in via definitiva, anche con il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e contraffazione. 20-25 miliardi di euro sono quelli sprecati per il mancato utilizzo dei beni confiscati, anche perché il processo di sequestro, confisca e destinazione dei beni è molto farraginoso, lungo e confuso. Un conto è il sequestro, poi c'è la confisca vera e propria, definitiva, e la destinazione. Sappiamo che poi il rischio è che quando va in asta ci siano dei prestanome della mafia, della 'ndrangheta, della camorra, che se li ricomprano. Un immobile su 5 confiscato alla criminalità nell'agroalimentare si concentra su riguarda l'agroalimentare, e la metà si concentra in Sicilia. Poi c'è la Calabria 18%, Puglia 10%, Campania 8%. Le regioni più virtuose come agromafia sono Sardegna 2%, Lombardia 1,6%, Basilicata 1,5% e Piemonte. Il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo, al microfono la nostra Alessandra Schepisi, dice: attenzione, sono a rischio tutte le imprese italiane che operano in questo settore. È una mappa che ci descrive un'attività criminale che va oltre i territori a cui siamo culturalmente abituati a pensare, quindi si diffonde in modo liquido in tutto il paese e in modo liquido dal campo allo scaffale alla tavola. I settori più colpiti quali sono? Andiamo dai furti in campagna alle attività della criminalità e nell'agricoltura, passando per le attività di trasformazione dei prodotti, arrivando alla gestione di attività commerciali fino all'attività di luoghi di pubblico esercizio come la ristorazione, bar, ristoranti, pizzerie. Quindi davvero una criminalità che si muove e che ha capito anche lei che il cibo è un settore trainante per il futuro del nostro paese. Rispetto al rapporto pubblicato l'anno scorso, quali sono le novità? Intanto cresce il fatturato, superiamo i 16 miliardi e quindi è la conferma di un fenomeno che fa male non solo all'immagine del nostro cibo e del nostro paese nel mondo, ma che può mettere a rischio la salute dei consumatori, mette a rischio l'ambiente e soprattutto soffoca un tessuto imprenditoriale che è fatto di tantissime imprese oneste. Non risparmia al nord, non risparmia al centro, non risparmia al sud, si muove in modo liquido su tutta la filiera, quindi è un fenomeno a cui dobbiamo dedicare molta attenzione, su cui serve incoraggiare un'attività di controlli che è davvero importante, oltre 100.000 controlli nel 2015 fatti dalle forze dell'ordine, ma anche serve una revisione delle norme sui reati agroalimentari e poi una operazione di trasparenza su tutta la filiera, perché per prevenire occorre anche che il consumatore, quando va a fare la spesa, possa sapere tutto ciò di acquisto. E il ministro dell'agricoltura Maurizio Martina, sempre sul tema delle agromafie, è intervenuto appunto alla presentazione del rapporto. Ripeto, adesso non possiamo, vedo che molti scrivono su questo, però dice: attenzione, l'Italia è leader nella lotta contro le frodi, ora avanti con le leggi sul caporalato e i reati agroalimentari, sempre al microfono della nostra Alessandra Schepisi. Un'attenzione che dobbiamo tenere molto alta, noi non dobbiamo certo sottovalutare i numeri di questa situazione ed è bene che ci siano giornate come queste per riflettere tutti insieme sull'andamento di questi fenomeni. Io rivendico però anche con grande forza il lavoro che il Paese ha fatto su questo fronte, 240.000 controlli in 2 anni e l'attività complessa, anche investigativa, che è stata messa in campo in particolare in quest'ultimo periodo per capire innanzitutto meglio questo fenomeno, sono un dato importante, certo non risolutivo, ma che noi dobbiamo assolutamente valorizzare. C'è un livello di professionalità e di competenze del sistema delle forze dell'ordine e dei nostri strumenti, penso all'ispettorato controllo qualità e repressione frodi del Ministero, che non ha pari in Europa e nel mondo. E poi il procuratore Giancarlo Caselli, presidente dell'Osservatorio sulla criminalità di Coldiretti, dice: attenzione, purtroppo le mafie, non soltanto nel settore agroalimentare, sono in espansione. Le mafie, non soltanto nell'agroalimentare, in ogni comparto, per così dire, economico e merceologico, sono purtroppo in espansione. Per quanto riguarda l'agroalimentare, la loro filosofia è quella di sempre: piatto ricco, mi ci ficco. Nell'agroalimentare c'è da guadagnare, se si gioca con un mazzo truccato si guadagna ancora di più. Ecco che inesorabilmente le mafie ce le troviamo. Questa espansione, 16 miliardi oggi, l'ultimo rapporto è la cifra che evidenzia, ne sono la dimostrazione. Allora, vedo... Dunque, quanti bei dettagli su Rizzi, mi scrive uno. Certo, è notizia di cronaca, ma invece Mussari, guarda, io ho fatto 10 puntate nell'ultimo anno e mezzo solo sul Monte dei Paschi. Abbia pazienza, anche perché molti mi chiedono su Rizzi, sull'ex braccio destro di Maroni, sospeso dalla Lega, ex, Come ha fatto la banca a dargli 5.000 euro di mutuo se questo aveva 8.000 euro di reddito percepito? La domanda però è corretta, eh? Perché voglio dire, se io vado in banca con 8.000, già sono ricco con 8.000 euro netti, e dico che voglio 5.000 euro di mutuo, insomma la banca dice: ma lei ce la fa Barisoni con 3.000 euro a vivere, a un figlio, altre spese, se poi scopro che 1.500 li devo dare alla Lega come accordo, ma come ha fatto la banca a dargli sti mutui? Forse perché era l'assessore alla sanità, non so, chiedo, è veramente singolare. E adesso arriviamo sulle banche, prendiamola non larga ma alta, vediamo così, perché poi va a finire bassa. Scusate la battuta. Allora, Renzi oggi intervenuto al Senato sulle banche, a mio avviso, così chi mi accusa di essere renziano potrà essere contento. Renzi ha detto: attenzione, insomma, qui bisogna fare ogni sforzo per tenere dentro la Gran Bretagna nell'Unione Europea, vabbè. Sul tavolo del Consiglio Europeo di domani ci sono vari dossier, referendum inglese all'immigrazione, ma il fil rouge è uno solo: se nei prossimi anni l'Europa torna a essere comunità o sarà solo un contratto tra paesi. La cosa più interessante forse è quella che riguarda proprio le banche. Dopo che aver chiesto Renzi che l'Unione Europea abbia degli ideali, non dei decimali, e senza l'Italia è più debole, poi ha detto: l'Italia fa i compiti a casa, l'Europa non ancora, è venuto sul tema delle banche e ha detto: metteremo il veto su qualsiasi tentativo in Europa di mettere un tetto alla presenza dei titoli di Stato nel portafoglio delle banche. Questa è la proposta che, mentre crollavano i titoli bancari anche e soprattutto tedeschi, Deutsche Bank e Commerzbank, arrivava da questa Germania che ci sorprende sempre, ma in negativo. Addirittura rompe le scatole all'Italia o ai sistemi bancari che hanno troppi titoli di Stato in pancia. Un tetto. L'Italia ha detto che metterà il veto e poi ha aggiunto una battuta al veleno: se in alcuni istituti di credito del Nord Europa, si legge Germania, avessero ottenuto i titoli italiani, avrebbero avuto molto più rendimento anziché mettersi in pancia alcune realtà discutibili. E poi ha aggiunto: si è fatta una discussione con una mozione di sfiducia su alcune banche toscane, ma oggi ci rendiamo conto che è una questione enorme che riguarda anche la prima banca tedesca. Bisogna avere la forza di dire che nella pancia delle banche, di molte realtà del credito europeo, c'è un eccesso di derivati, c'è un eccesso di titoli tossici che, a mio giudizio, deve portare con chiarezza l'Italia a prendere una posizione. Noi metteremo il veto su qualsiasi tentativo che vuole andare a dare un tetto alla presenza di titoli di Stato nel portafoglio delle banche. Sempre in tema di banche, però è intervenuto anche il ministro Padoan, che ha detto, dopo il decreto sulle banche, una disposizione legislativa, insomma, gli indennizzi ai subordinati non sono in linea con la normativa comunitaria. Riguarda la possibilità di destinare eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione degli enti ponte, oltre che dai ricavi della bad banking in relazione alla gestione delle sofferenze, ad azionisti e creditori delle banche in oggetto, rispondo quanto segue. Ai sensi dell'articolo 47,7 del decreto legge 180/2015, gli azionisti o i creditori dell'ente oggetto di risoluzione, cioè le banche originarie, non vantano alcun diritto sulle attività, diritti e passività ceduti dall'ente ponte o alla società veicolo per la gestione di attività. Dei proventi della cessione delle partecipazioni negli enti ponte e nelle società veicolo beneficiano gli azionisti di queste. Nel caso di specie, l'azionista unico è il Fondo di Risoluzione Nazionale, che ha fornito il capitale necessario. I proventi saranno utilizzati da questo per ripagare il prestito ricevuto per fronteggiare l'impegno finanziario pari a 3,6 miliardi di euro e recuperare spese sostenute. Pertanto, una disposizione legislativa volta a consentire ad azionisti e obbligazionisti subordinati di beneficiare dei proventi della cessione degli enti ponte o dei ricavi della bad bank non pare in linea con la normativa comunitaria. Traduciamo? Insomma, se vi aspettate, cari obbligazionisti delle quattro banche salvate in quel modo dallo Stato, un pasticcio nei tempi, nei modi, nella comunicazione, in tutto, se vi aspettate che da alcune plusvalenze possiate avere una parte dei rimborsi su quello che avete perso sulle obbligazioni subordinate, le famose obbligazioni abbassate come prezzo all'87%, ve lo scordate, l'Unione Europea non ce lo permette. Okay? Ma adesso andiamo alla Popolare di Vicenza, e qui sono dolori. Qualcuno mi dice, mi scrive, ma insomma, a parte che c'è qualcuno che difende Rizzi, forse c'era anche il reddito della moglie per avergli dato un mutuo da 5.000 euro al mese. Ce lo deve dire però, perché la moglie invece chiedeva altre cose. Comunque, se lei non vede il problema su Rizzi, va bene così. Il problema è che lo vede la procura di Monza, sa, non è il mio giudizio che conta. Ma andiamo avanti. Allora, che cosa succede nella Popolare di Vicenza? Fino all'estate del 2014, e questo lo sappiamo per certo, ai clienti, ma soprattutto a chi voleva avere un mutuo o un imprenditore che voleva avere un credito, veniva detto: io ti do il credito, ma devi comprarmi delle azioni della banca. L'aggravante è che poi nell'ultimo periodo si è scoperto anche che veniva dati prestiti ai clienti purché comprassero azioni della banca, e qui siamo alla follia totale. È una pratica che hanno fatto tante altre banche sui mutui, per esempio sui prestiti. Il problema, ripeto, è che questi titoli non erano quotati, quindi il prezzo lo faceva il consiglio di amministrazione e poi lo portava all'assemblea. Così, fino all'estate del 2014, le azioni vengono offerte a 62,50 euro ai clienti. Poi sappiamo che già a maggio del 2015 il prezzo viene portato a 48, aprile 2015 a 48 euro per azione. Oggi il consiglio di amministrazione dice: per tutti quelli che non vogliono restare nella Popolare di Vicenza, che si trasformerà in SPA, il prezzo che vi diamo se ci vendete le azioni è di 6,3 euro, ossia il 90% in meno. Qui stiamo parlando di una banca molto radicata sul territorio, in cui, come ci stanno scrivendo molte persone, dicevano di sì anche se non era quotato il titolo perché si fidavano alla loro banca, di un territorio ricco, ma in cui c'era anche la tendenza a fidare moltissimi risparmi a quella banca. Ringrazio allora per averci raggiunto in collegamento Luigi Ugone, che è presidente dell'associazione Noi che credevamo nella Popolare di Vicenza e riunisce piccoli e medi azionisti della Popolare di Vicenza. Buonasera Ugone. Buonasera. Beh, sento che è un bel tono, capisco che 6,30 euro, guardi, le cifre circolate erano 10 euro, 8 euro, 7 euro, 6,30 euro è proprio il minimo che potevamo immaginare, e grazie anche a Fabio Pavesi del Sole 24 Ore. Ho il meteo e la pubblicità, non racconti balle, Barisoni, a me le hanno proposte senza insistere, Franco. E lei le ha comprate, Franco, perché è uno dei pochi casi virtuosi che le hanno proposte senza insistere. Dopo il meteo. Focus Economia. Allora, la Popolare di Vicenza, scrive un ascoltatore, in realtà bastava dire di no all'acquisto. Fughiamo subito questo dubbio con chi rappresenta noi che credevamo nella Popolare di Vicenza, l'associazione di piccoli e medi azionisti. Ugone, bastava dire di no, cioè la banca diceva: guarda, ti diamo il mutuo, ti diamo il prestito, però tu potresti comprarci delle azioni, e bastava dire di no, guarda, no, io voglio solo il mutuo, hai la mia casa a garanzia o hai il capannone nel caso di un prestito, era così? Guardi, allora... Alzi un po' la voce che la sento male, Ugone, se no non sentiamo. Allora, quello che la questione è questa: per i prestiti agevolati, loro proponevano prestiti agevolati in cambio di azioni. Quindi lei mi dica chi avrebbe rifiutato, visto che la banca era conosciuta, si riteneva affidabile, e per anni siamo sempre stati all'oscuro che il problema del valore delle azioni iniziasse dal 2001. Poi se contiamo che uno poteva avere un'azienda e dei fidi, e la banca ti chiama dicendo che miglioriamo i fidi, compra azioni, mi dica chi rifiutava. Ha avuto, un mutuo oppure un fido per l'impresa? Guardi, io personalmente ho avuto agevolazioni sul conto corrente, semplicemente quello. E com'è andata la cosa per lei e per quelli che lei rappresenta come presidente dell'associazione? Cioè, venivate chiamati dalla banca o andavate allo sportello per chiedere, negoziare un prestito? Era la banca che vi chiamava senza che voi aveste chiesto nulla? Molte volte, molti nostri associati hanno detto, e ci confermano, e io confermo per quello che può essere la mia situazione, di essere stato convocato perché ci abbiamo chiesto l'acquisto di azioni. In che anno? Ma guardi, io 2012. Quindi lei ce l'ha a 62 euro e mezzo, diciamo, un po' meno forse. Guardi, io ho una situazione un po' complicata, perché poi ho avuto un giroconto bancario e, vista la situazione, vista la mia associazione, sono stato anche cancellato dall'albo socio. Adesso forse mi riscriveranno, ma non potrò intervenire in assemblea, giusto, giusto per dirla, insomma. Io ho chiesto dispensa al presidente, vediamo se mi darà dispensa per intervenire, perché... No, ma dico, lei le ha avute in carico... Sì, 62,50 come il 50% dei soci ormai, perché la maggior parte dei soci sono entrati in buona fede negli ultimi 2-3 anni, insomma. Sì, che non cambiano. Allora, Fabio Pavesi, mettiamo i puntini su lei su questo. È chiaro che una banca può avere uno scossone, può avere un calo di borsa, può avere un calo, sbagliare le strategie, perdere valore e quant'altro. Per cui non è che uno se le compra a 62,50 euro debba immaginare che stiano sempre a quel prezzo. Il problema era come venivano vendute, ben capito, cioè con che insistenza e soprattutto senza spiegare che avessi avuto bisogno di soldi non saresti riuscito a venderle finché lo stesso CDA non avesse fissato un nuovo prezzo, chiaramente a vantaggio dei conti della banca. Beh, questa vicenda amarissima, perché facciamo i conti, chi ha 10.000 euro in azioni in Vicenza valgono 1.000. L'altra banca che ha una situazione simile è Veneto Banca. Chi ha 10.000 euro di Veneto Banca, perché sono state portate prima da 39 a 30 e adesso a 7,30, ha 2.000 euro. Cioè uno ha perso il 90%, Vicenza, e un risparmiatore veneto ha perso l'80%. Allora, ovvio, i prezzi erano drogati di queste azioni. Questo va detto con estrema chiarezza. Cioè, non essendo quotata, il CDA ogni anno diceva: questa azione vale X, con i periti indipendenti, esperti da Bocconi, che convalidavano quel prezzo. Peccato che, come dire, mentre tutti vedevano, e qui il problema è grave, che nei bilanci da Vicenza non è che le cose andassero benissimo di Veneto, perché avevano le stesse sofferenze che avevano le altre banche italiane. Cioè la crescita delle sofferenze era analoga a quella delle altre banche italiane, che in borsa crollavano nel 2012-2013. E invece l'azione continuava a salire, cioè il CDA, pur in presenza della crisi bancaria 2012-2013, con tutte le altre banche perdevano il 30-40 in borsa, per loro il valore della loro azione saliva, che già questa è un'anomalia grave. I bilanci ti dicevano che erano lo stesso valore delle sofferenze, e quindi quell'azione era completamente drogata, perché se tu hai sofferenze come Unicredito e Unicredito mi scende del 30 e tu mi sopravvaluti la tua azione, insomma, qualcuno sta mentendo clamorosamente. Allora, che abbiano mentito i vertici della Procura di Vicenza è fuori discussione. C'è un'inchiesta. Dal presidente ai due amministratori delegati, perché l'ultimo è stato fatto fuori prima dell'arrivo di Iorio. E va bene, il CDA è responsabilità. Certo, vorrei anche capire questi revisori, questi esterni, perché come sempre poi quando chiediamo ai terzi, cavolo, non vedono mai società di revisione, il sindaci. Terzo era ben remunerato, era un professore, veniva remunerato con 50-60 mila euro per dare... Ma in un caso era il professor Mauro Bini, lo dico perché firmò una delle perizie. Beh, ma ce ne sono altri, voglio dire, in genere fanno saranno questo lavoro abitualmente. Forse, lui dice a sua difesa, a me davano un dato di patrimonio, io lavoravo su quello, non potevo sapere che le perdite avrebbero eroso il patrimonio, perdite che la banca non stimava. Quindi dal suo punto di vista ha anche ragione, però voglio dire, se tu vedi che le sofferenze sono alte, che prima o poi diventeranno perdite e la banca tende a non farle vedere, questo è il vero problema. Cioè i bilanci erano del tutto mascherati, nel senso sia Zonin che consorti e i loro CDA non facevano le svalutazioni adeguate, quindi la banca priva in salute quando in salute non era, e in più l'azione aumentava di valore. E lì sono stati fregati tutti quanti, cioè diciamola veramente papale, cioè forse andava controllato un po' l'andamento della banca, ma il risparmiatore non ha gli strumenti per capire se dal bilancio se la banca va bene o male. Se io devo prendere per buono quello che dice Bini, dice io non avevo i numeri, figurati il risparmiatore che va lì. Appunto, adesso, cioè, appunto. Un revisore contabile o comunque chi dà una perizia di parte almeno ha la possibilità di chiedere altri numeri, e diciamo che gli andava bene quelli che gli hanno dato. Ma il risparmiatore, il correntista, il cliente, che appunto, come sappiamo, siccome veniamo da anni di retorica sulle banche popolari, mi ricordo il muro che si creò quando il governo fece la riforma delle popolari, le banche legate al territorio, ci volete spersonalizzare, trasformare in SPA, ci snaturate. Poi scopriamo che questo cavolo di rapporto sul territorio significava tanta fiducia perché eri la banca del territorio, poco ripagata perché in alcuni casi fregavi proprio sulla base della fiducia che c'era, proprio sulla base del fatto che ti chiamassi Veneto o Vicenza o Etruria o Chieti o Ferrara o Marche, così tutte l'ho dette. Certo che poi c'è anche il Monte dei Paschi, lì però siamo proprio alla truffa sofisticata e organizzata con le banche d'affari Deutsche Bank, Nomura, insomma con tutti i big della finanza mondiale. Qua siamo proprio a rapporto, mi conosci, ti fidi e così ti frego meglio. A maggior ragione, non essendo quotato, il meccanismo qual era? Io più do prestiti, più mi capitalizzo, perché se vendo l'azione a un prezzo maggiorato, è ovvio che mi conviene fare tanti prestiti perché così mi capitalizzo. Quindi è un gioco veramente perverso. La cifra vale circa 10 miliardi tra Vicenza e Veneto di valore bruciato per 200.000 risparmiatori. Oh, sono 10 miliardi non di borsa. No, no, attenzione, no, no, di risparmi questa di volta. Di risparmi, perché non è il valore del titolo di borsa che è come quando diciamo bruciati i soldi in borsa, quello è un valore virtuale, cioè finché non vendi non porti a casa le perdite e per cui dice, poi magari la borsa risale. Qui hanno bruciato due banche, Popolare di Vicenza e Veneto Banca, 10 miliardi di risparmi veri, perché quando tu la compri a 62 e ce l'hai a 6 è già bruciato, nel senso che se vai a venderla ce l'hai a 6, il mercato l'apprezzerà a 6 perché questo è il valore poi di qualunque tipo di fusione, per cui tu hai già perso il 90% di risparmi veri, non di valore di borsa che magari potevi dire poi ricresce o poi torna a salire e recupero qualcosa. Traffico. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta Focus Economia. Allora, qualcuno mi scrive forti con i deboli, deboli con i forti, le popolari locali. Beh, in questo caso sì, nel senso che c'è anche il tema di chi invece ha avuto un trattamento speciale, ci sono anche degli indagati su questo, e diremmo anche noi, perché questi indagati riguardano in alcuni casi anche il nostro editore, per cui c'è Zigliotto che è indagato, poi il massimo rispetto alla magistratura, perché l'accusa è che alcuni di questi soci abbiano avuto la possibilità di uscire a prezzo pieno, è un'accusa, poi è tutta da dimostrare. Ok, quindi prima di iscrivermi, vediamo quanto sei omertoso, Barisoni, se c'è di mezzo la Confindustria, vi ho già deluso, non siamo omertosi, ok? A differenza di altre radio, altri mezzi di stampa, qua diciamo tutto, almeno apprezzate questo del nostro editore, se vogliamo dire tutto. Allora, che ci lascia dire tutto, purché sia corretto. Fabio Pavesi, dov'era la Banca d'Italia? È un bel tema. E perché questa cavolo di cosa viene fuori solo quando arrivano gli ispettori di Mario Draghi della Banca Centrale Europea? Governatore Visco, questa non è una polemica inutile, visto che lei si è molto piccato all'ultimo Forex. Qui bisogna capire se la Banca d'Italia ha meccanismi di funzionamento. C'è chi addirittura ha detto che l'allora presidente della Popolare di Vicenza Zonini era solito poi assumere ex dirigenti della Banca d'Italia e questo creava un rapporto così, insomma, un po' troppo vicino. Dov'era la Banca d'Italia e i clienti privilegiati? È bizzarro, perché le ispezioni di Banca d'Italia rilevavano comunque che non svalutavano i crediti malati e quindi Banca d'Italia sapeva della situazione abbastanza compromessa a Vicenza e anche di Veneto. Qui non si capisce perché di fronte al CDA che aumentava la loro relazione Banca d'Italia non aveva nulla da dire. Questo è un passaggio molto delicato. Banca d'Italia si difende e dice: ma quel valore lo fissa il CDA, che è una sua governance autonoma, io non posso intervenire sulla fissazione del valore del prezzo che non è quotato. Ho capito, però se tu Banca d'Italia sorvegli la banca nella sua capacità di stare in piedi e di essere solida, se vedi che ha dei problemi come le altre banche mi aumenta la loro relazione, magari ti poni un problema. Non è successo nulla. Di più, Zonin passò per quello che fece la proposta di comprarsi l'Etruria. Vi ricordate? Era la Vicenza che paradossalmente avrebbe valorizzato gli azionisti. Esatto, cioè, perché offriva la sfiga un non c'è euro mai per peggio. Azione quando l'azione Etruria ne valeva 60-58. Ebbene, anche lì Banca d'Italia ha detto qualcosa sull'offerta di Zonina alla Etruria. Io mi sarei permesso di dire: ma qui uno zoppo compra un altro zoppo, insomma, stiamo attenti. Tema poteri forti di alcuni clienti che hanno avuto anche loro le azioni a 62,5 euro, ma hanno avuto la possibilità di uscire a 62,5 euro. Nel foglio degli indagati, sia a Vicenza che a Montebelluna, quindi a Veneto Banca, Tra gli indagati ci sono anche persone, imprenditori locali, poteri forti, notabili del posto, che avevano la possibilità, probabilmente, ripeto, sono indagati, c'è un'accusa, andrà dimostrata, hanno fatto perquisizioni, che erano lettere di riacquisto al valore pieno, cioè qualcuno si è salvato da questo disastro. E insomma, voglio dire, era un trattamento di favore nei confronti di qualcuno che quel favore si era forse meritato, ma mi chiedo, è modo di fare banca questo qui? O è modo di trattare qualcuno come di serie A e qualcuno di serie B? No, appunto, infatti lì bisogna stare attenti, perché c'è, se tutto era firmato con un contratto, però la magistratura vuole indagare, vuole capire perché alcuni sì e ad altri no. Era un trattamento discriminatorio, quantomeno. Ed è se non ci sia, non si ravvisi il caso del trattamento discriminatorio. Ora, contenti e bene chi l'ha avuto, io non sto dicendo che uno ci deve provare, però bisogna capire perché ad alcuni sì e ad altri no, perché sennò il tema del... tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali di altri, per dire la Orwell, torna fuori anche nelle benedette o maledette popolari che tanto si vantavano di fare bene al territorio. Per ora faccio notare che tra Veneto e Treviso sono scomparsi 10 miliardi di euro di risparmi di imprenditori, commercianti, artigiani, dipendenti, casalinghe, pensionati e quant'altro. Questo è il dato. Poi tutto il resto... non è noia, ma è fuffa. Grazie a Fabio Pavesi, GR24. Si impara all'estero. L'importante è imparare i migliori e tornare per applicare il know-how che hai preso all'estero. Io sono contento nel mio piccolo di fare qualcosa nel mio paese, cioè quello di tornare, di lavorare con musicisti italiani, fare concerti, fare CD e tour in Italia. Qualcuno torna, è vero, ma sono sempre di più quelli che se ne vanno. In Italia, secondo me, non si può parlare di circolazione di talenti, ma è solo fuga. È sempre il discorso della meritocrazia, che in Italia non esiste, è un dato di fatto in tutti i settori. A Giovani Talenti ogni sabato vi raccontiamo l'emigrazione, l'espatrio, la fuga dei nostri migliori talenti. Puntiamo il dito contro la peggiore Italia, quella che vi obbliga ad andarvene e che ostacola l'innovazione, l'Italia degli amici, dei figli, dei parenti. Allo stesso tempo, incoraggiamo chi decide, con coraggio, di tornare e cambiare le cose. Sono Sergio Nava, vi aspetto con Giovani Talenti ogni sabato alle 13.30 su Radio 24. Radio 24, Sky e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, Luigi Ugone, presidente dell'associazione Noi che credevamo nella Popolare di Vicenza, per concludere questa triste, tristissima pagina, ripeto, visto che il titolo oggi è stato portato a 6,3 euro per azione per chi volesse uscire dalla Popolare di Vicenza, che si trasformerà in SPA, e fu collocato a 62,5 euro. Qualcuno mi chiede se, sì, confermo, tra Veneto Banca e Popolare di Vicenza, nell'asse ricco del nord-est tra Vicenza e Treviso, sono stati bruciati veramente, non virtualmente in borsa, 10 miliardi di euro di risparmi come effetto di una svalutazione tra il 90% delle azioni della propria Vicenza e l'80% di quelle della Veneto Banca, non quotate in borsa, quindi nemmeno uno ha potuto vendere mentre calavano del 10, del 20, del 30. Sono decisioni arbitrarie dei titoli non quotati. Ugone, dei consigli di amministrazione sui titoli non quotati, che cosa volete fare voi? Perché a sto punto mi sembra che i margini siano pochi. Ciao, guardi, se posso dirglielo, noi è tutto giusto quello che avete detto, c'è un piccolo particolare: adesso ci vogliono far trasformare in SPA. Bene, lo stesso CDA che ci ha portato in questa situazione sta facendo il piano delle SPA. Uno, non è credibile. Due, la banca sta perdendo un sacco di raccolta e un sacco di soldi. Perché? Perché non è credibile. È una banca che non è credibile, non è una banca. Arrivare in borsa per noi sarà peggio ancora dei 6,30 del recesso. Parliamoci chiaro. Noi abbiamo un piano industriale diverso, fatto da accademici, che non si chiama SPA. Si chiama in un altro modo. Lo presenteremo il 27 di questo mese, perché vogliamo essere concreti, e vogliamo portare a casa la banca del nostro territorio nel nostro territorio. Questo poco mi assicuro. Sì, ma che speranza, che la legge prevede che le banche popolari si trasformino in SPA. C'è un consiglio di amministrazione che oggi... Guardi, mi dica. Corretto. La legge prevede che le banche popolari si trasformino in SPA nel caso in cui raggiungano la superiore gli 8 miliardi, ok, e l'assemblea voti la trasformazione. Se noi non votiamo la trasformazione, abbiamo altri 8 mesi per decidere cosa fare. Noi abbiamo un piano che suddivide la banca nel territorio, per capitalizzazione, vendendo degli asset, delle partecipazioni che adesso non si vogliono toccare, probabilmente si vorranno toccare dopo per dare l'ultima carne che resta allo speculatore che comprerà tutti pochissimi soldi. Quindi noi all'Assemblea del 5 marzo voteremo no. Invitiamo tutti a votare no per mandare a casa soprattutto questo CDA. Niente contro Iorio o Dolcetta, però loro hanno una mission che non è il nostro interesse. Abbiamo parlato chiaro anche quando ci siamo incontrati. E abbiamo detto, guardate, non possiamo votare questo piano industriale di questo CDA per i motivi che abbiamo detto, e Dolcetta accetto legittimo. Quindi abbiamo tutti i presupposti per poter dire no, e vogliamo che la gente e i soci gli associati dicano no, anche perché come i Popolari di Vicenza, lo dico chiaro, basta guardare il rispecchio di Popolari di Sondrio. Le Popolari di Vicenza, la banca è cresciuta tanto e male. E quindi va ripristinata la banca. Buona parte di tutti, sindacati compresi, perché i numeri parlano chiaro. E Iorio non lo ha ammesso all'inizio del suo piano industriale, ma lo sta dicendo ora nelle riunioni. Quindi anche ai dipendenti bisogna dire, non vi fidate, andate oltre, guardate bene i numeri. Quindi la vostra linea sarà quella di dire no, votiamo no alla trasformazione in SPA, abbiamo tempo fino quasi a fine 2016 per proporre una soluzione alternativa, ho capito bene? Assolutamente sì, e abbiamo già una bozza di soluzione alternativa. Decidiamola con un altro CDA, decidiamola con un CDA credibile, che dia credibilità alla banca e che dia credibilità anche a tutte quante le operazioni che arrivano dopo. Che si dimetta il CDA che c'è adesso, che si dimetta, che tempo ce n'è, e lo vogliamo sfruttare tutto. Allora, in bocca al lupo a tutti gli azionisti, anche se detto così sembra quasi una beffa, però insomma a tutti gli azionisti della Popolare di Vicenza, ahimè, ripeto, le voci che il titolo, dopo essere sceso a 48 euro, sarebbe sceso ulteriormente verso i 10, 9, 8 euro per azione, circolavano da tempo, insomma 6,3 euro è il minimo anche della forchetta minima. Grazie a Luigi Ugone, presidente dell'associazione Noi che credevamo nella Popolare di Vicenza, e adesso andiamo sulla borsa. Sì, molti mi scrivono di Saipem, no, guarda, il caso è molto diverso, proprio non c'entra nulla, l'unica cosa simile è la distruzione di valore per gli azionisti, fermo restando che Saipem, torneremo a occuparcene, è un grosso danno anche per la Cassa Depositi e Prestiti, c'è niente da dire, è un grosso danno per i risparmiatori perché il titolo Saipem di una bellissima azienda era considerato uno dei titoli da cassettista, cioè da risparmiatore che non specula, che vuole tenere i soldi investiti. Oggi Saipem guadagna comunque il 9,22%, ma faccio notare che a 33 centesimi di euro ne valeva 6-7 quantomeno. È diversissimo però come si è arrivati a quella cosa lì, anche perché Saipem era quotato in borsa, per cui non c'entra nulla con la trappola in cui è caduto chi ha comprato Pop Vicenza e Veneto Banca, che poi quando cercava di venderle con i primi scricchioli non poteva perché andava in banca, in filiale, non c'era mai un compratore né a 60 euro né a 50 euro né finché non sono arrivati a 48 euro e nel frattempo né a 40 euro né a 30 euro, adesso se le becca a 6,5 euro. Comunque, commentando la borsa, dicevo Ferrari più 10,38 e poi Saipem più 9,22, Anima Holding più 8,90, Azimut più 8,5, Tenaris più 6%, Chrysler più 5%. Andrea Fontana, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, recupero sul petrolio. Il petrolio si sta muovendo in realtà ed è sopra i $30. Mi sembra un po' un pretesto. Le altre borse europee, più 3% Parigi, più 2,60 Francoforte, più 2,87 Londra e Dow Jones più 1,35%. Ferrari, c'è la notizia di Soros lì, mi sembra di capire. Sì, è emersa dalle comunicazioni negli Stati Uniti che Soros sarebbe accaparrato 850.000 azioni Ferrari, probabilmente con il collocamento avvenuto in autunno, questo pacchetto di azioni è pari allo 0,45% del capitale. Chiaramente se fosse vero che le acquistate in quotazione, Soros starebbe registrando una minusvalenza potenziale significativa, ma l'ingresso di investitore, la presenza di investitore così importante, con un peso importante in Ferrari 0,5%, ha fatto salire molto il titolo in una giornata in cui l'auto in generale e anche il lusso è andato, sono andate entrambe allora, bene. Cassa del risparmio di Genova, perché oggi va bene, ci sono varie sono uscite alcune indiscrezioni in questi giorni sulla Carige. Sì, si sta cercando il nome del nuovo amministratore delegato, il primo azionista Malacalza Investimenti ha annunciato venerdì sera un ricambio, una forte discontinuità ai vertici di questo istituto che sta piano piano cercando di uscire da una profonda ristrutturazione. Chiaramente la speculazione sui nomi che potranno andare a guidare la nuova banca e che entro il 4 marzo verranno resi noti con la lista del primo azionista sta creando anche una certa turbolenza sul titolo e un buon recupero. Ha guadagnato oggi il 12%, ma si sta muovendo bene da qualche giorno. Ancora oggi sui titoli va bene anche Serena in pregilo sulla conclusione delle trattative per il lavoro di ampliamento del canale di Panama. Invece vorrei citare, oltre a Saipem, Anima Holding più 8,90, Azimut più 8,50, chi gestisce risparmio di solito amplifica l'andamento del mercato in questi casi, Tenaris più 6%, Fiat Chrysler più 5,1%, Ferragamo più 4,80%, Moncler più 4,5% come Hughes, Net-a-Porter e Tod's, e CNH Industrial più 4,30%, Exor pure, la controllante del gruppo Fiat, Poste Italiane più 4%, ma è vero che, visto che le banche oggi crescono meno, che c'è un ragionamento per cui l'instabilità del settore bancario starebbe favorendo Poste Italiane? Beh, sicuramente qualche analista ragiona sul fatto che, diciamo, le tensioni sulle banche, un po' la corsa dei risparmiatori quantomeno a chiedere informazione o comunque un certo timore sulla tenuta delle banche che abbiamo visto a dicembre e a gennaio, non solo per i titoli in borsa ma per tutte le discussioni riguardanti le quattro banche ponte e il bail-in, si ipotizza che si sia tradotta in flussi importanti di risparmio in Banco Posta e nei prodotti di Poste, quindi questo è uno dei fattori che secondo qualche analista potrebbe emergere prossimamente nei conti di Poste Italiane nel primo trimestre ma anche nell'ultimo scorcio del 2015. Ancora tra i titoli oggi rimbalza Telecom Italia dopo il calo di ieri, dopo i conti, rimbalzo importante come dicevamo perché il titolo ha un po' ritracciato nel finale ma guadagna il 4%, bene tutto il settore energetico legato al petrolio, Eni più 3,21 di Saipem abbiamo già detto, e poi il gruppo delle banche, allora Unicredit più 2,40 come il Banco Popolare, Campari che non c'entra con le banche più 2,40. E poi Pop Emilia Romagna più 2,40 come Intesa San Paolo, Monte dei Paschi più 2,30 come le Generali, Mediobanca più 1,90, Terna più 1,5%, va detto che su Terna oggi ci sono anche i dati sul 2015, ricavi oltre 2 miliardi, il margine operativo lordo a 1,5 miliardi, investimenti che salgono 1,1 miliardi e un indebitamento che è cresciuto a 8 miliardi ma come effetto anche dell'acquisizione della rete elettrica delle Ferrovie dello Stato. Migliori e peggiori in assoluto, IKF più 29,5%, Molmed più 23%, Zucchi più 17%, Tiscali più 17%, fronte opposto poca roba, del clima meno 12%, RWE meno 11%, Novare meno 6,70%, Bastoggi meno 4,70%. Grazie Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore. Dopo il traffico arriveremo al tema del rapporto di oggi del centro studi di Confcommercio, perché è un rapporto che ogni tanto ci fa respirare, tra virgolette, nel senso che non va a vedere l'andamento della pressione fiscale anno su anno, ma negli ultimi 20 anni, e si scopre, sempre tra virgolette, perché nonostante i tentativi delle manovre finanziarie di ridurre la pressione fiscale, nessuno di noi abbia mai avuto o visto una riduzione fiscale, anzi. Focus Economia. Allora, la Confcommercio oggi pubblica uno studio sulle tasse locali dal 95 al 2015 e scopriamo che sono aumentate del 248%. Questo spiegherebbe anche perché dal 95 sempre al 2015 la pressione fiscale, che ne abbiano detto i vari presidenti del Consiglio, è passata dal 40 al 43,7%. Le tasse locali sono passate dal 30 miliardi a 103 miliardi. Anche le tasse centrali sono aumentate, più 72%. Ora uno ci può mettere anche un po' di inflazione, ma il dato non è solo sulle tasse centrali. A mio avviso quello che spicca è quello sulle tasse locali. Chiedo spiegazione al direttore dell'Ufficio Studi di Confcommercio, Mariano Bella. Buonasera. Buonasera, eccomi. Ma dunque, ci possiamo mettere un po' di inflazione, anche tanta, ci possiamo mettere anche la crescita del PIL, resta il fatto comunque che la pressione fiscale, cioè il rapporto, e quindi non risente di questi effetti, in termini di pressione fiscale passa dal 40 al 43,7, come ha già detto lei. E le imposte locali, effettivamente, tributi diretti e indiretti, passano a 30. Bella, mi alza un po' la voce, che la sentiamo bassa, sto cercando di far alzare i volumi anche in regia, prego. Sì. Dunque, dicevo, le imposte locali sono cresciute del 250%. Ora, la vera patologia non è che riguarda questa forte crescita dei tributi locali, perché c'è stato il federalismo, sono i 20 anni. No, mi scusi, Bella, ha l'auricolare lei? No, non ho l'auricolare, non ho l'auricolare né niente. Sto parlando al telefono, che dovrebbe essere anche di ottima qualità, almeno così me l'hanno venduto. Vabbè. Dunque, il problema è questo, che lo Stato centrale ha delegato agli enti locali delle funzioni col federalismo e quindi gli enti locali, per sostenere queste funzioni, hanno dovuto aumentare le tasse. Ma lo Stato centrale si è dimenticato di ridurre le tasse centrali in maniera proporzionale. Il risultato è che appunto le nostre tasche si sono viste portare via molti più soldi di quanto sarebbe stato accettabile. Per non parlare delle iniquità che questo sistema confuso e scarsamente coordinato genera. Perché a Roma si pagano 2.200 euro più che a Trento o a Bolzano, semplicemente in termini di IRPEF e di IRAP, solo su una base imponibile di 50.000 euro, il che vuol dire che ci sono due interrogativi davanti. Perché succede questo? Perché succede in questa misura? Perché uno potrebbe anche dire, non c'è niente di male, i romani hanno votato alle vecchie amministrative per un programma di grande lusso in termini di arredo urbano, di una sanità speciale, eccetera, eccetera. Purtroppo questo non è vero. I romani pagano più tasse. Chiariamo questo punto perché è importante, riguarda in primo luogo gli imprenditori. Perché questi dati sono aggregati. Però se tu hai un'impresa con sede a Roma o con sede a Trento, uno dovrebbe dire, paghi di più a Trento perché hai dei servizi oggettivamente migliori. È l'esatto opposto, a dimostrazione che quando facciamo la rubrica sugli sprechi della pubblica amministrazione, anche e soprattutto locale, c'è una doppia fregatura. Non solo vivi peggio là dove l'amministrazione è peggio condotta, ruba, spreca, fornisce consulenze inutili, ma hai anche un costo della pressione fiscale più alta, perché poi l'amministrazione locale, vedi il caso dell'ATAC a Roma, tanto per citarne uno, manda a remengo le partecipate e i suoi conti e quindi aumenta le tasse locali. Quindi sei cornuto e mazziato, per dirle in maniera poco finanziaria. Sì, ma così stanno le cose, esattamente così, cornuto e mazziato. C'è poco da fare. Perché voi calcolate che l'imponibile IRAP pari a 50.000 euro. Se io come imprenditore ho sede a Trento o a Roma, ballano di differenza a vantaggio di Trento 2.256 euro, cioè io pago 2.256 euro in più a Roma rispetto a quello che pago a Trento a parità di imponibile IRAP. Vi do anche la classifica delle 21 città campione del vostro studio. Roma è la più cara, poi Campobasso, ma guardate che la classifica è pazzesca, perché peggio sono ridotte queste città più paghi l'imponibile. Allora, Roma è la più cara, poi Campobasso, Napoli, Catanzaro, voi avete usato come raffronto i 16.744 euro che uno pagherebbe a Trento su 50.000 euro. Allora, se sei a Trento ne paghi 16.744 su un imponibile IRAP di 50.000, se sei a Roma ne paghi 19.000, cioè 2.250 in più, e in mezzo troviamo Campobasso, dove ne paghi 18.600, cioè 2.000 euro in più rispetto a Trento, Campobasso. Napoli pure 18.600, Catanzaro, Palermo e L'Aquila 18.400, poi si arriva a Torino 18.200, Bari 18.200, Ancona Genova, Bologna, Venezia, Trieste, Firenze, lì si arriva praticamente quasi a Trento, cioè a quanto pagheresti nella più virtuosa Trento, 16.700 euro. Questo poi pesa molto di più di tante piccole manovre sulle tasse, no? Certo, ma queste cose che stiamo raccontando sono fatte su dati ufficiali, i cittadini le conoscono benissimo. Io personalmente non prendo la residenza a Roma, che mi converrebbe perché pagherei meno IMU sulla seconda casa, semplicemente perché rispetto a Bologna c'è uno scarto di oltre 1.000 euro in termini addizionali IRPEF e IRAP. Ora questa cosa non può essere più tollerata, perché questo circolo vizioso per cui peggio vanno le cose più pagano i cittadini perché devono ripianare i buchi sta sostanzialmente uccidendo il federalismo, e poi in termini anche di partecipazione politica non ci stupiamo se le persone non vanno a votare, per cui il principio del vedo, voto, pago, cioè vedo i programmi elettorali, voto quello che secondo le mie preferenze è più conveniente, poi pago, si sta riducendo a vedo, non vedo niente perché non ci sono fabbisogni così standard, quindi non si capisce la differenziazione tra programmi elettorali, voto, non voto perché sono disilluso e c'è un'attenzione del 50%, l'unica cosa che è rimasta è il pago. Allora o mettiamo un aggiustamento su questo tema oppure addio federalismo. Guardi, lei parla con chi in tempi non sospetti, prima che scoppiasse, parliamo del 2005-2006, con, ricordo, Cacciari, qualcun altro. Io ero molto, personalmente molto scettico sul fatto che un paese come l'Italia, il federalismo è una bellissima cosa, ma richiede dei cittadini veramente seri, mettiamola così, che non vanno sempre o spesso a cercare di fregare ciò che è pubblico. Una grande responsabilizzazione e responsabilità. E allora, se poi succede che alla fine il cittadino paga e basta, ma non riesce ad avere gli elementi per votare un'amministrazione piuttosto che un'altra, guarda che il caso di Roma è devastante da questo punto di vista, ma non è l'unico, è chiaro che il federalismo diventa appunto cornuto e mazziato per chi risiede lì, con un vantaggio anche competitivo per l'imprenditore che risiede a Trento. Per cui attenzione, perché il federalismo richiede un cittadino particolarmente consapevole e informato, e non sono così convinto che si possa applicare in buona parte di questo paese. Detto questo, la soluzione non è far pagare coi soldi dei virtuosi ripianare i debiti delle amministrazioni pubbliche non virtuose. C'è chi dice commissariamole come in Francia, non lo so, in Francia il federalismo neanche se lo immaginano, vanno di prefetture e via così. Comunque bella, grazie per averci raccontato non una cosa bella, mi scusi il gioco di parole, ma insomma che tipo di danno faccia la cattiva amministrazione locale agli imprenditori e ai cittadini che la vivono, riferita proprio agli esempi più virtuosi che abbiamo invece di amministrazione locale. Grazie al direttore dell'ufficio studi di Confcommercio, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, una buona serata da Sebastiano Barisoni, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.